Siamo oggi in compagnia di Daniele Comper, che ringraziamo per aver accettato la sua intervista e grazie a te. Gli chiediamo di presentarsi. Allora, ciao a tutti, io sono Daniele Comper, sono nato e cresciuto a Rovereto, in Valle Agarina, e ho studiato per anni cose totalmente diverse dal mio lavoro attuale, che è l'agricoltura. Quindi da appena dopo la laurea mi sono buttato in questo mondo. Sono un agricoltore, un viticoltore, e mi piace, sono molto contento e cerco di farlo al meglio, insomma. Come mai la scelta di cambiare la traiettoria del tuo percorso di studio e di rivolgersi alla terra? Non mi sono mai visto effettivamente fare un lavoro da psicologo, di fare un lavoro inerente a quel settore lì. La mia famiglia ha sempre avuto dei terreni, comunque un'azienda agricola che abbiamo sempre condotto a livello familiare, quindi tra mio papà, io, i miei cugini, i miei zii e mia nonna. È un'azienda agricola risalente a mio nonno l'aveva fondata. Diciamo c'era questa possibilità e l'ho colta al balzo, insomma. Ci troviamo sulla collina di Besanello, in località Le Fratte, il conoide antestante al Castel Beseno, dal quale godiamo di una vista sul centro della Valle Agarina. Qua, guardandosi in giro, troviamo una predominanza di quasi il 100% di viticoltura, vite. E la zona in particolare, la zona di Besanello, è molto vocata per la coltivazione del moscato giallo, che viene normalmente conferito nelle varie cantine sociali più o meno vicine, insomma. E altre colture possono essere il melo in piccolissima percentuale, qualche olivo sparso e orti familiari. E tu che cosa coltivi qua? Allora, questo è un campo di moscato giallo, chardonnay. Altre varietà che coltivo sono, diciamo, le classiche, quindi chardonnay, pinot grigio, cabernet, merlot, c'è un po' di schiava, muller. Io lavoro 7 ettari, tra collina e valle. Com'è il tuo rapporto con la terra? Qual è la scintilla? Perché è partita questa cosa? Allora, a me piace molto intanto il fatto di non avere nessuno che ti impone le cose, se non i ritmi naturali, insomma. Poi, chiaro, è un lavoro di fatica, spesso, abbastanza pesante in certi periodi dell'anno, però diciamo che dà una gratificazione molto, molto grande, molto bella. E mi piace soprattutto appunto questa libertà, che è abbastanza impagabile, no? Un periodo di meraviglia che tutti gli anni rivivo è il dopo vendemmia, inizio ottobre o fine ottobre, quindi con i primi freddi, la prima rugiada per terra. Non so, mi piace molto camminare nei vigneti e vedere che è stato tutto raccolto, tutto completo, tutto pronto per il riposo. C'è un odore anche particolare nell'aria, secondo me questo è molto bello, anche perché ti fa ripensare a quanto tempo ci hai messo per produrre e raccogliere quel grappolo, sa? Bello, mi dà un bel feeling, una buona sensazione, no? È un lavoro diretto, no? Quindi dà molto piacere proprio buttarsi, entrare dentro nel terreno, o anche sulla pianta, no? Comunque sono sempre in relazione col vigneto o con la pianta singola. Quindi è proprio totalizzante, no? Perché ci sei sempre dentro. Che cosa trovi di diverso rispetto al passato nel modo di rapportarsi alla terra? C'è molto più bisogno di professionalità, sicuramente. Io ho sempre imparato da hobbista, quindi mi ha spiegato mio papà, i miei cugini, sono entrato con poche competenze, più legate al buon senso, al passaparola, no? Dopodiché sono entrato professionalmente in questo settore. Grazie al PSR sostanzialmente ho fatto un corso di agricoltura a San Michele. Mi ha dato delle basi molto più solide ed effettivamente so meglio come lavorare, insomma, adesso. Rispetto al passato, adesso è richiesta più competenza, c'è più competenza. Questo ha dei benefici sull'ambiente, su tutto, insomma, tutta la filiera. Una volta si raccoglieva con molto più tempo a disposizione. Ora i ritmi sono davvero cambiati. La vendemmia è sempre stata un pranzo di gruppo, abbiamo la nostra tavola che ci spostiamo nei vari campi, viene coinvolta tutta la famiglia. Io in prima persona cerco di mantenerla il più possibile questa tradizione, perché mi piace, posso permettermelo, visto insomma le dimensioni aziendali, no? Che mi permettono di mantenere ancora queste cose che mi piacciono, no? Però vedo che sicuramente in altre realtà trovare il tempo per fare attenzione a queste cose è molto più difficile, perché ovviamente ci sono delle scadenze, delle tempistiche, degli obiettivi da raggiungere, e tanti le lasciano in secondo piano. cosa fai tu come buona pratica, no? Rispetto all'ambiente, rispetto anche agli altri, non so, utilizzi tecniche particolari, stai attento, prendi del, fai del, cioè, se dentro la tua filosofia, il tuo approccio, c'è anche questo legame che tu tieni presente tra cibo, quindi ciò che beviamo, mangiamo, territorio e persona, no? Facciamo parte di una catena. Essendo un conferitore, per cui non vendendo direttamente il mio prodotto, il mio vino, la mia uva, quindi avendo un tramite tra me e il cliente, nonostante questo ho sempre ragionato come se lo vendessi io, nel senso che c'è un disciplinare, ok, io cerco di tenere al minimo l'impatto dei fitofarmaci, di usarli il meno possibile, il diserbo ormai non lo faccio più da anni, e quindi ho sempre ragionato come se quell'uva, quel vino la bevessi io, i miei familiari, i miei amici. Ho sempre cercato di puntare sulla sostenibilità ambientale, sociale, delle persone con cui collaboro, che mi danno una mano, e diciamo questo è stato sempre il mio primo pensiero quando sono in campagna, quando devo fare delle decisioni, delle scelte. Diciamo che rispetto a una volta, adesso i campi sono progettati per essere lavorati a macchina, cosa che magari generazioni precedenti facevano meno caso a queste cose, perché era molto più manuale, più fisico il lavoro stesso, insomma si zappava. Adesso grazie a Dio le macchine fanno questo tipo di lavoro al posto nostro, però sicuramente questo ha influito sulla forma, sull'estetica, diciamo, dei vigneti, dei campi e quindi delle valli, del territorio, insomma. Tanti appezzamenti, tantissimi, molto regolari, incastrati l'uno con l'altro e nel modo, diciamo, più razionale possibile. Rispetto agli anni scorsi ci sono molto più pergole doppie, quindi lavorabile da due lati anziché da uno solo come la pergola semplice, rispetto a una volta si lavorava molto più sulla pergola semplice da un lato, orientata solitamente verso il sole per far sì che i grappoli e la pianta si asciughino prima. La tendenza dei giovani oggi com'è? C'è una tendenza al ritorno dei giovani, e soprattutto più specializzati rispetto a qualche anno fa, e che magari prendono in mano il vigneto di famiglia, del nonno, fondano una piccola cantina e sono enologi bravissimi con anni di tirocinio magari anche all'estero, e quindi questa è una tendenza molto, molto positiva, bella, diversa da quello che si è sempre fatto, no? Quindi cooperazione fine a se stessa, che per carità è rispettabilissima, però secondo me c'è bisogno di entrambe le cose, un po' di cooperazione, un po' di anche cantine indipendenti, no?